Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. È chiaro che la porta è molto stretta, ma sono convinto che il governo con il ministro Saccomanni ed il tesoro sarà in grado di contenere il deficit sotto il 3% e di prospettare per il 2014 una manovra con legge di stabilità che rilanci lo sviluppo. Così il ministro del lavoro Enrico Giovannini a margine di un convegno questa mattina. Il punto invece, diciamo, sulle ultime tensioni tra Roma e Bruxelles nel servizio di Sergio Nava. Dopo settimane di avvertimenti più o meno espliciti, la Commissione europea mette le cose in chiaro. Fonti di Bruxelles hanno ammonito che, qualora l'Italia rischiasse di toccare quota 3,1% nel rapporto deficit-PIL quest'anno, dovrà implementare misure per riportarlo sotto il 3%. Nessuna deroga è consentita, anche se le stesse fonti hanno poi limato l'avvertimento, riponendo esplicita fiducia nel ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, che del rispetto del principale parametro di Maastricht si è fatto garante. È ormai evidente come sull'asse Roma-Bruxelles sia in corso un braccio di ferro muscolare al di là delle apparenze, anche perché non è un mistero, la cancellazione dell'IMU anteposta al taglio del cuneo fiscale non è affatto piaciuta in Europa. Il ministro dello sviluppo Flavio Zanonato rassicura sul deficit, sarà poco sotto il 3%, fiducioso anche il collega Enrico Giovannini. Ma al tesoro sono ore di fibrillazione per far quadrare i conti tra aumenti IVA da evitare, cancellazioni IMU da coprire e rifinanziamenti di varia natura. Le stime indicano fino a 6 miliardi da trovare per non sforare Maastricht e perdere così spazi di manovra per gli investimenti. Intanto il PIL scivola verso il meno 1,7% quest'anno, unico negativo nella G7, e il debito sfonderà quota 130%. Non sono segnali positivi quelli che accompagnano le manovre economiche all'esame di Bruxelles, previsto quest'anno per la prima volta a metà ottobre. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto il portavoce di Olli Rehn ha confermato che sono in corso discussioni a livello tecnico sulla metodologia per il calcolo del deficit strutturale del potenziale di crescita. Staremo a vedere. Intanto parliamo di crisi ancora che colpisce tutti, ma per alcuni è persino peggio. Una parlamentare europea richiama la Commissione di Paesi membri. La disabilità, da leggera a grave, riguarda una persona su sei in Europa, ovvero circa 80 milioni di persone che spesso non riescono a partecipare pienamente alla vita sociale ed economica a causa di barriere comportamentali ed ambientali. Scriveva così la Commissione europea nel 2010, comunicando la strategia europea sulla disabilità fino al 2020. 3 anni fa, il tasso di povertà relativo alle persone con disabilità era superiore del 70% alla media. Oggi va peggio però, perché tante persone disabili che potrebbero e vorrebbero lavorare non riescono più a trovare un'occupazione, soprattutto se donne. Ecco perché la deputata libera austriaca Angelika Wertmann ha presentato una risoluzione alla Commissione europea e ai Paesi membri in cui si richiama a un maggior rispetto della legislazione esistente sui diritti delle donne disabili. Se una donna con disabilità affronta discriminazioni e difficoltà enormi già in tempi normali, dice la Wertmann, è scontato che in tempi di crisi le cose siano ancora più difficili. I dati italiani confermano le preoccupazioni della deputata austriaca. Secondo la FISH, Federazione Italiana Superamento Handicap, solo il 16% delle persone disabili in età lavorativa ha un'occupazione in Italia e di queste solo una minima quota sono donne. Con numeri così, non stupisce che nel luglio scorso la Corte di Giustizia Europea abbia bocciato l'Italia per le sue norme sull'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ancora una notizia, l'ambasciatore Manuel Iacolangeli è stato eletto oggi presidente del gruppo di lavoro per le relazioni esterne del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa. Bene, con questa breve da Bruxelles abbiamo concluso la settimana di Europa 24. Vi ricordo l'appuntamento con l'Euroreportage domattina alle 8:15, naturalmente l'altra Europa alle 10 per parlare più diffusamente della settimana europea. Europa 24 invece torna lunedì come sempre. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.